partita, vamos alle carte in classetto. Ma vamo a clavarla nel cielo. No, pari qua, valiente! Este! Eso es lo que quiere el señor.